collirio, cosa mi resterà, punto interrogativo. Mi son sempre chiesto cosa un padre. Io non ho un padre. Grazie ogni tua azione che ho distrutto ogni legame. Più forte della fame, la vita mangia da me. Mia madre a casa il pane, sul ciglio abbandonato come un cane. Chi donerebbe un rene per restare insieme, togliere la sete, dare il proprio bene, essere fedele. Chi lascerebbe invece crescere il proprio frutto senza seme. Per me ci lega solo il sangue nelle vene. Ho vari esempi da mostrarti, Gianmario e Marco. La foto li ritrae, felice al parco. E non è sua la scelta di dividersi da Marco, ma da aspettargli al varco il male, il cancro. Potevi starmi accanto, ma non l'hai fatto. Adesso piangi, è un finto pianto. A chi devo, letteralmente, finisce uguale. Strade, frate e madre, ehi, ma non c'è padre. Senti questo Dio che fa? Che cos'è un padre? Io non lo so. Se mai avessi un figlio che me lo chiederà, con questa canzone io risponderò. Dimmi come fare. Dimmi come fare. Io non so scappare. Dimmi come fare. Dimmi come fare. Dimmi come fare. Che cos'è un padre? Mai avessi un figlio che me lo chiederà, con questa canzone io risponderò. Ho ancora quei momenti ben impressi nel cervello, e tu te ne sei andato, macchia d'acquarello. Ai margini un portone, le tue frasi via dal vento. Ancora dodicenne avevo addosso il tradimento. Mia madre ancora che ci spera, piange alla finestra. Pensa che la vita ormai è fatta di tristezza. I tuoi vent'anni di legame con la maschera sul viso. Non basta una carezza per ridargli quel sorriso. Ma ti ringrazio sai per tutto quello che è successo. Un giorno tutto questo forse sarà il mio successo. Sapere cosa fare, sapere cosa dirgli. A fianco sempre l'oro, se mai avrò dei figli. Solo lungo il molo, prendi il volo. Un uomo solo, sei davvero un uomo. Se riesci a mantenerti solo, se prendi quella scelta al mondo poi metti una figlia. Sei davvero uomo, se resti a fianco alla famiglia. Senti questo